Ciao, sono Sergio e leggo alcuni capitoli da Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio di Katherine Randall, uscito per Rizzoli. Appetiti selvaggi ed eroico ottimismo. Le fiabe non sono mai state solo per i bambini. Si rivolgono caparbie e combattive a tutti, vecchi e giovani, uomini e donne di ogni paese. Marina Warner ha sostenuto che le fiabe sono ciò che di più vicino abbiamo a un esperanto culturale. Tedeschi, persiani, americani che siamo, le fiabe che ci raccontiamo sono le stesse, perché le storie viaggiano oltre i confini, libere come uccelli. Stringi, stringi, tutte le fiabe hanno gli stessi ingredienti di base. Ci saranno sempre i personaggi archetipici, matrigne, re potenti, animali parlanti. Ci saranno ingiustizie e conflitti, spesso violenti e stravaganti, raccontati in una lingua asciutta e concreta, che non risparmierà ai bambini né agli adulti la loro cruda ferocia. Ma ci sarà spesso anche un elemento, una fata madrina, un incantesimo, un albero magico, che porterà il miracolo della speranza nella storia. Le fiabe, scrive Warner, inscenano ogni genere di violenza, ingiustizia, disgrazia. Ma lo fanno per denunciarne l'inutilità. Le fiabe suscitano paura per invitarci a non essere spaventati. Angela Carter vede nella fata madrina l'incarnazione di quello che lei chiama ottimismo eroico. La speranza nelle fiabe è più appuntita dei denti. Questo spirito di ottimismo eroico, un ottimismo coperto di sangue e ansimante, ma pur sempre tale, non è altro che il principio vitale puro e semplice, e parla a ognuno di noi, perché le fiabe sono concepite da sempre come un modo per rivolgersi contemporaneamente a tutti. Sono l'esempio di quanto un certo tipo di storia, che gioca con gli archetipi, con i desideri umani primordiali, con le metafore pungenti, possa unire persone per ogni età ed estrazione, attirandoci tutti, come per un incantesimo, in uno stesso mondo immaginario. Le fiabe sono anche un indicatore della nostra evoluzione culturale. Più di qualunque altro genere di storia vivono, respirano e cambiano. Cenerentola è un buon esempio. È la prima fiaba che mi ricordo di aver amato quando ancora non sapevo leggere, e forse perché era la più dinamica sul piano fisico. In una schiera di dormienti, Biancaneve, la Bella Addormentata, i prigionieri, Raperonzolo, il filatore anonimo della fiaba di Tremotino, Cenerentola era l'unica che correva quasi sempre, sebbene di solito per scappare su tacchi alti di cristallo. La prima versione della storia di Cenerentola risale al 7 a.C. Era una fiaba orale trascritta dal geografo greco Strabone nella sua Geografica. Chi già era perplesso dalla priorità data alle scarpe rispetto alla personalità nella moderna Cenerentola, troverebbe la versione di Strabone ancora più odiosa, visto che qui le scarpe precedono addirittura la persona. Un'aquila sottrae un sandalo di pelle a una bella donna e lo lascia cadere in grembo al re di Menfi. Visto che mi è stato chiesto, l'ho preciso. Mi riferisco alla capitale dell'antico Egitto, non a Memphis, il cui re molti anni dopo si sarebbe chiamato Elvis. Il re è così incantato dalla deliziosa forma del sandalo che ordina agli uomini di setacciare il paese alla ricerca della sua proprietaria, che prenderà in moglie. Fu poi Charles Perrault, nei racconti di Mamma Oca del 1697, ad aggiungere la fata madrina e la zucca che si trasforma in carrozza. Nella versione dei Grimm del 1812, Aschenputtel, le sorellastre si tagliano le dita dei piedi e un pezzo di calcagno per entrare nelle scarpette. Una dopo l'altra ingannano il principe e si fanno abbracciare. Ma il loro trucco viene smascherato dal sangue che tracima dalla scarpa. Nella Gatta Cenerentola di Giambattista Basile, Zezolla, che un tempo era sposata con il principe, offre alla matrigna un baule pieno di abiti meravigliosi. Quando la donna si piega a guardarci dentro, Zezolla chiude il coperchio decapitandola. E tutte le volte che racconto questa storia nelle scuole, i bambini esplodono in tumultuosi boati di felicità che fanno tremare le pareti. Nella sua Cenerentola del 1893, Marian Rolfe Cox elencò 345 varianti della storia quasi archetipica. Nella versione islandese, la terribile matrigna era un'orchestra che costringeva la figlia a tagliarsi le dita dei piedi per conquistare il principe. Il principe lo scopriva, uccideva la figlia orchessa, la cucinava e la dava in pasto, spacciandola per porridge alla madre affamata. Le fiabe sono dunque sempre cambiate nel tempo. Attualmente però in Inghilterra le storie di principesse fanno riferimento soprattutto ai film della Disney, il primo dei quali, Biancaneve e Sette Nani, risale al 1937, film deliberatamente concepiti per spettatori bambini, più spesso bambine. Ci hanno fatto credere che le fiabe siano solo per dolci bamboline. Il valore della Disney in borsa è di circa 200 miliardi di dollari, più del PIL di Islanda, Marocco, Namibia e Kirghizistan messi insieme. Quelle storie fruttano somme da capogiro e dal punto di vista finanziario all'azienda conviene che le proprie versioni restino quelle più impresse nell'immaginario collettivo. Ogni anno si pubblicano riscritture di fiabe, ma nessuna è ancora riuscita a scalfire il dominio culturale delle narrazioni Disney. Le altre si leggono come fossero variazioni sul tema, versioni differenti della narrazione principale di cui non prendono mai il posto. E in una certa misura la narrazione dominante sarà sempre percepita come quella che gode della nostra benedizione culturale. Come scrive Spufford, se ci viene raccontato «c'era una volta un principe», ci viene anche inevitabilmente raccontato a un qualche livello e in un qualche misura che era giusto che ci fosse un principe. Un elemento che salta fuori dal nulla, ma è abbastanza solido da imporsi, si consegna a noi. Ecco in cosa consiste il potere e il pericolo delle storie. Se hanno il potere di fare bene, le storie hanno evidentemente anche il potere opposto. Non voglio mettere al bando Disney o Cenerentola, rischiando di sguinzagliarmi contro il Daily Mail. Un titolo del 2017 recitava «Alla fine ci ha uniti, nel senso di ci siamo scatenati tutti contro, una mamma che si è permessa di bandire La Bella e la Bestia». Cenerentola è una straordinaria storia fantastica e se avessi dei bambini gliela racconterei. Tuttavia, la Cenerentola di Disney, quella che aspetta con pazienza di essere vista, abbellita, scelta e resa ricca, non manca solo di azione, ma anche di fame. Le fiabe vere raccontano la fame, fame di potere soprattutto, ma anche fame di giustizia, amore, cambiamento e trasformazione, fame di altre persone. I personaggi si divorano tra di loro, talvolta letteralmente, finché non sono incastrati uno dentro l'altro come matriosche. Perciò se avessi dei bambini racconterei loro la Cenerentola della Disney come una tra le tante vecchie versioni, insieme alla Gatta Cenerentola e a quella islandese. Come l'espressione di una tradizione selvaggia e turbolenta le racconterei. E racconterei loro pure un'altra versione, nella quale Cenerentola corre anche di più, e aspetta di meno, è una in cui c'è ancora quell'eroico ottimismo, ma forse viene proprio dalla stessa Cenerentola, che potrebbe divorare, metaforicamente e magari anche letteralmente, la sua stessa fata madrina. Voler cambiare queste storie non è strano, sono sempre cambiate, strano sarebbe volerle tener ferme. Come scrive Angela Carter, sono molto favorevole a travasare il vino nuovo in vecchie bottiglie, specialmente se la pressione del vino nuovo fa esplodere le vecchie bottiglie. Fiabe, miti, leggende. Sono le nostre fondamenta e noi adulti dobbiamo continuare a leggerle e a scriverle, a reimpossessarci di loro, mentre loro possiedono noi. La letteratura per ragazzi oggi. A metà del XIX secolo, quando la carta era diventata più economica e maggiore era il valore riconosciuto alla letteratura per l'infanzia, i libri cominciarono a prendere in considerazione i veri desideri dei bambini. La fame sovversiva delle fiabe, sguinzagliata dal recente boom della produzione editoriale, faceva il suo ingresso nei romanzi per ragazzi. Le storie concepite per i bambini si staccavano dalle aule di scuola e dai pulpiti e cominciava la prima era dell'oro dei libri per ragazzi. Lewis Carroll, Rudyard Kipling, J.M. Barrie I Nesbit uccidevano i genitori, li abbandonavano o li lasciavano per cadere nel paese delle meraviglie o per volare all'isola che non c'è, e così facendo liberavano i bambini dagli obblighi del mondo adulto. Bambini orfani e non controllati vagavano nella terra delle storie, creando lo scompiglio necessario a far nascere un'avventura. Si aprivano al lettore esperienze più intense e selvagge, storie che allargavano il confine del possibile. Fu allora che ci si sbarazzò dell'idea che i bambini fossero dolci, gentili o per forza di cose più semplici e adorabili delle altre persone, così come dell'idea che la sola logica possibile fosse quella degli adulti. Da piccola non nutrivo alcuna illusione sulla dolcezza dei bambini. Sapevo dalla furia che avevo nel mio stesso cuore che i bambini erano spesso maligni, rozzi e sgarbati. Accantonando quell'idea, i libri per ragazzi cominciarono a giocare con regole proprie e così facendo diventarono forme d'arte a sé, con la loro propria tradizione, anziché versioni annacquate di prodotti per adulti. E quella tradizione ha retto. È possibile tracciare un albero genealogico da Peter Pan, che apparve per la prima volta nel 1902, e così via di questo passo fino a che i ragazzi continueranno a essere spensierati, innocenti e senza cuore, a Mary Poppins del 1934, con il suo fascino severo e impenetrabile, perché Mary Poppins, si sa, non dà mai spiegazioni alla logica anarchica e surreale di Nel paese dei mostri selvaggi, 1963, e di Una tigre all'ora del tè, 1968, che beve tutta l'acqua del lavello. Ho incontrato Judith Kerr una volta sola. Mi ha raccontato che uno dei suoi editori voleva farle cambiare questa frase perché raccontava una cosa impossibile e l'editore temeva che l'impossibile avrebbe turbato i ragazzi. Sono molto felice che Judith l'abbia tenuta così. Per arrivare poi a Roald Dahl, Frank Cottrell Boyce, Lisa Evans e a qualcun altro di cui non sappiamo ancora il nome, che prima o poi scriverà una storia che ci terrà con il fiato sospeso. L'albero genealogico continua a crescere. I libri per ragazzi di oggi sono ancora pervasi dalla stessa vecchia e furiosa sete di giustizia che caratterizzava le fiabe. L'orrenda matrigna viene decapitata da un baule. Mrs. Coulter del Cannocchiale d'Ambra di Philip Pullman, 2000, cade per sempre in un baratro nelle pieghe dell'universo. E poi, intimamente legato al bisogno di giustizia, c'è un altro sentimento, il cugino più lieve della punizione, la meraviglia. In un mondo che apprezza fin troppo la posa blasé di chi ha già visto tutto, la letteratura per ragazzi si permette uno sguardo di stupore naïf. Eva Ibbotson fuggì da Vienna nel 1934, dopo che gli scritti di sua madre furono banditi da Hitler. La sua opera è piena di uno sfrontato stupore per il semplice fatto di essere vivi. Trappola sul fiume Mare, 2001, possiede un tipo di meraviglia che altre forme di narrativa si vergognano di concedersi. Ecco perché è alla letteratura per ragazzi che si torna quando si vuol provare incanto, fame e brama di giustizia. Per far scalpitare di nuovo il cuore del vecchio cavallo da battaglia, chiuso dentro la stalla. Politica. Molti libri per ragazzi hanno una sorprendente valenza politica. Nonostante la nostra attitudine all'ordine e alla disciplina, basta pensare ai manuali di buone maniere e alle uniformi scolastiche che fanno sembrare gli studenti tanti piccoli candidati sindaci, la letteratura per ragazzi inglese è spesso surrettiziamente sovversiva. Mary Poppins, per esempio, era una hippie ante litteram, contro le aziende e a favore del gioco. Mr. Banks, un nome significativo, aveva una grande scrivania e faceva soldi. Lavorava tutto il giorno facendo penny e scellini e li portava a casa con sé nella sua piccola borsa nera. Edith Nesbit è stata una socialista marxista e ha chiamato suo figlio Fabian per via del fabianesimo. The Story of the Treasure Seekers è pieno di piccole e ironiche stilettate contro i banchieri, i politici, i quotidiani che offrivano ricette facili per diventare ricchi e le pretese intellettuali della classe media. E lo stesso vale per gli scrittori di tutto il mondo. Ursula Le Guin, una delle più grandi scrittrici per ragazzi americane, dichiarò: «Viviamo nel capitalismo. Il suo potere sembra ineluttabile, ma era così anche con i diritti divini dei re. Qualunque potere umano può essere contrastato e cambiato dalle persone. La resistenza e il cambiamento cominciano spesso con l'arte, e molto spesso con la nostra arte, l'arte delle parole. I libri per ragazzi sono oggetti pericolosi sotto mentite spoglie, spade nascoste dentro ombrelli. I libri per ragazzi sono espressamente scritti per essere letti da una parte della società priva di potere economico e politico. Persone che non dispongono di denaro, che non votano, che non controllano il lavoro, il capitale, le istituzioni statali, che si muovono nel mondo consapevoli della propria vulnerabilità. E al tempo stesso persone che non vivono ancora la pressione degli obblighi lavorativi, che non hanno ancora imparato a rivolgere i propri pregiudizi contro gli altri e a masticarsi il cuore. E visto che, per quanto ce la raccontiamo, nella vita anche gli adulti sono spesso senza potere. Ci conviene tornare in tutta fretta ai libri per ragazzi, per ricordarci che cosa ci rimane quando abbiamo bisogno di ricominciare da capo.